Come da poca picchita va bene. Se tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Que son de rock and roll.